Coraggio di mostrargli le colpe. Non lasciando più argomentare la nostra forte voce. Come mai adagiamo tanta fiducia in lontane barriere virtuali? Spesso adatta a quel potere che ci dice a che pensare. Ci entusiasma una lista di artisti, qualche soldo donato. Per chi fugge dalla guerra o dal debito che abbiamo taciuto. Sfileremo in girotondi quando sfruttano il lavoro, spolverando la miglior maglietta rossa per colmare la vergogna lungo il volto. Tutti cinguettiamo di pace ed uguaglianza, ma possiamo abbaiare di giustizia e mordere la causa senza questi denti da carnevale. Fermeremo coi gessetti colorati le bombe della NATO. O toglieremo le scarpe insieme ad Abbas, pensando di liberar la Palestina. Spenderemo il tempo a pubblicare il nuovo hashtag di un intellettuale, così come i soldi che spendiamo a bombardare. Ci entusiasmano le persone del mondo, danzare con loro. Ma perché non le pensiamo libere di liberarsi da noi? Sfileremo scalzi con le multinazionali, cavalcando la miglior ipocrisia, quella della carità senza alcuna indipendenza. Tutti cinguettiamo di pace ed uguaglianza, ma possiamo abbaiare di giustizia e mordere la causa senza questi denti da carnevale. E se a destra ora si usano parole che furono le nostre, non dobbiamo permettergli di sputtanarle reagendo con la stessa pancia. E se qui a sinistra ora il vuoto lascia campo al capitale, non è con l'arcobaleno che si lotta, ma con il bianco della verità che lo contiene.